2024 di Enrico Pagliarini. Ed ecco a voi una nuova puntata di 2024, il programma di tecnologia di Radio 24. Di che cosa ci occuperemo in questa puntata? Parleremo della Cina e di una missione appena ritornata dalla Luna. Ci occuperemo anche di marketing di prossimità e poi parleremo delle nuove norme che la Commissione europea ha presentato per tentare di meglio regolare il mercato digitale. E poi parleremo anche di un appello, una sorta di appello fatto da Asso Software per la pubblica amministrazione perché si dia una regolata sulla digitalizzazione. Sicuramente il fatto più importante della settimana tra quelli di tecnologia che seguiamo a 2024 è quello che è accaduto negli Stati Uniti, un attacco informatico coordinato che ha preso di mira il 13 dicembre dipartimenti e agenzie federali americane e anche alcune grandi aziende. Molto probabilmente i contorni di questo attacco non saranno mai svelati fino in fondo, ma alcune cose le sappiamo. Nelle ultime ore il Dipartimento dell'Energia ha dichiarato che si è trattato del più grave attacco mai avvenuto a sistemi del governo degli Stati Uniti. E l'agenzia del governo che si occupa della cyber security ha detto che comprendere appieno l'intrusione sarà molto complesso. Secondo alcune fonti anonime, dietro a questo attacco ci sarebbe un gruppo di hacker russi riconducibili al governo di Mosca, che però ha rinviato al mittente le accuse. Però è certo che dietro ad un attacco di queste dimensioni e un attacco così sofisticato c'è sicuramente uno Stato. Non è che possiamo pensare, ma questo lo dicono tutti gli esperti di cyber security, stiamo parlando di un'azione profondamente complessa. Quindi dietro che siano i russi, magari è vero, però potrebbero anche essere i cinesi o un altro Stato. Certo è che per superare i sistemi di difesa dei dipartimenti americani e di molte società coinvolte, questo gruppo di criminali criminali, qui appunto c'è un'azione di un team di dove è nato, questi esperti di cyber, di attacchi, di guerra digitale, forse è meglio chiamarla così, si sarebbero serviti sia di materiale rubato da FireEye, una delle più grandi società di cyber security al mondo, una notizia che avevamo dato la scorsa settimana, e poi anche si sono basati sulle vulnerabilità ai software di SolarWinds. Questa è una società americana che fornisce servizi ad agenzie governative, all'intelligence, ai militari, a tantissime aziende. Ci sono anche aziende italiane che usano i sistemi di SolarWinds e in particolare sarebbero stati compromessi alcuni aggiornamenti dei software di SolarWinds tra marzo e giugno 2020, quindi un attacco che arriva da un po' di tempo fa, quindi è stato progettato da tempo, ma del resto tutti gli attacchi di questo genere sono progettati con tempo di anticipo. E poi mettendo insieme queste vulnerabilità con altro materiale rubato da FireEye sono stati messi a segno questi attacchi. Non sappiamo che cosa è stato rubato e sfiltrato, che tipo di compromissione c'è stata, ma sicuramente questa serie di notizie che abbiamo seguito in settimana confermano ancor più, se mai ce ne fosse bisogno, che la cyber security deve gradualmente diventare la priorità numero uno quando si parla di digitalizzazione dei processi, digitalizzazione della pubblica amministrazione, digitalizzazione delle aziende, eccetera, eccetera. Poi, sempre a proposito di notizie della settimana, legate sempre a problemi sulla rete, ad inizio settimana a fare notizie è stata anche l'interruzione di molti servizi di Google che per 45 minuti ha reso inutilizzabili Gmail, YouTube, il motore di ricerca e altri servizi. C'è stato un panico generalizzato, sono arrivati messaggi, telefonate di gente che diceva: hai visto cosa sta succedendo? Allora, per la verità io ero a pranzo a quel momento, quindi mi sono accorto di tutto un po' in ritardo, però questo la dice lunga sulla pervasibilità dei sistemi di Google. Anche qui non c'è nessuna novità particolare, sappiamo quanto pervasiva è Google. Però c'è da dire questo, che gli attacchi di cui abbiamo parlato poco fa e questo disservizio di Google, delle infrastrutture cloud di Google, non sono per nulla collegate. Sono due cose diverse che sono accadute più o meno negli stessi giorni, nelle stesse ore. Secondo Google c'è stato un problema ai sistemi di autenticazione dell'azienda e quindi pochi minuti dopo si sono accorti del problema e nel giro appunto di una 40-45 minuti hanno sistemato tutto. E probabilmente per stessa missione di persone che lavorano in Google è forse stato il disservizio più lungo che è successo alle piattaforme della società. Adesso alcune notizie in breve selezionate durante la settimana. Digital News. Dunque, la prima notizia ci fa capire alcune differenze a proposito di digitalizzazione tra la Cina e molti paesi occidentali. La Banca Centrale Cinese ha chiesto qualche giorno fa a tutti coloro che devono incassare denaro, quindi negozianti, professionisti, eccetera, eccetera, di continuare ad accettare i contanti, che in Cina sono sempre più rari, e ha promesso di punire chi si rifiuta di accettare pagamenti in contanti. Cioè, ormai sono così diffusi i telefonini con i quali si fanno pagamenti digitali che alcuni in Cina, per varie ragioni, ma soprattutto anche proprio per comodità, si rifiutano di accettare soldi in contante. E qui invece dobbiamo fare il cashback per incentivare i pagamenti digitali. Mentre Google deve occuparsi della terza causa antitrust negli Stati Uniti, incassa nell'Unione Europea il via libera all'acquisizione di Fitbit, annunciata a novembre 2019 per 2,1 miliardi di dollari. Fitbit è un produttore californiano di smartwatch, di activity tracker, quindi uno va a correre e poi si vede sull'applicazione tutti i parametri che descrivono l'attività fisica. L'antitrust europeo ha dato il via libera all'operazione dopo un'indagine durata quasi un anno in cambio dell'impegno di Google a non utilizzare per almeno 10 anni i dati provenienti dagli utenti Fitbit per la pubblicità. Quindi l'accordo è: tu puoi andare avanti, puoi avere nel tuo gruppo anche Fitbit, ma non puoi utilizzare quei dati per fare pubblicità profilata. Ci sono anche altre condizioni, come quella dell'accesso libero, previo consenso dell'utente, ai dati sull'attività fisica anche da terze parti come i produttori di smartphone Android o altre applicazioni. Anche questa è sicuramente una condizione utile per il mercato. Per quanto riguarda la terza causa negli Stati Uniti, di cui parlavo poco fa, è stata promossa da 38 stati per abuso di posizione dominante per tentare di imporre il proprio motore di ricerca in automobili, TV e altri apparecchi. Go Cardless, una startup britannica che si occupa di pagamenti digitali, ha ricevuto 95 milioni di dollari che portano a 240 milioni finora raccolti e a quasi un miliardo di valutazione sul mercato. Questo tanto per confermare ulteriormente che ci sono molti capitali, molta fibrillazione nel mercato dei pagamenti digitali. Beh, se ho detto una startup, però esiste dal 2011 Go Cardless, quindi forse non è più una startup. È una startup invece nata in Estonia, Bolt, conosciuta finora come Taxify, che ha raccolto 150 milioni di euro vista la crescita che ha conosciuto in questi mesi di pandemia. Bolt ha un servizio di auto con conducente tipo Uber, gestisce flotte di monopattini elettrici e consegna a domicilio di cibo, opera in 150 città in 35 paesi. Ricordate Periscope? C'è stato un periodo in cui non si parlava d'altro che di Periscope. Allora Twitter disattiverà il servizio di live streaming video, Periscope appunto, il 31 marzo. A causa del declino di utenti e di costi troppo elevati per mantenerlo attivo. Twitter aveva comprato Periscope nel 2015, non era ancora stata lanciata, appunto l'avevano acquistata per poi lanciarla. La resuscitata OneWeb, una delle società che stanno costruendo una costellazione di satelliti per portare in tutto il globo la connettività di internet, ha lanciato 36 nuovi satelliti che portano a 110 il totale in orbita. OneWeb è stata salvata da una procedura fallimentare, una società americana, da un gruppo di finanziatori fra cui il governo britannico e l'indiana Bharti Global. In bocca al lupo, perché c'è come concorrente principale Starlink di SpaceX di Elon Musk, e vedremo come va a finire. Un'ultima notizia riguarda il mercato dei nuovi player video, come Amazon, che ha acquistato uno dei pacchetti messi in asta dalla UEFA per la Champions League 2021-24. Si tratta delle 16 migliori partite del mercoledì sera. Nuovi player entrano in un mercato che verrà profondamente cambiato nei prossimi anni. La Cina ha completato con successo la missione robotica Chang'e 5, che ha prelevato e portato sulla Terra campioni di suolo lunare. Luigi Bignami, giornalista scientifico, esperto di spazio, vi consiglio di seguire i documentari di Luigi Bignami su Focus TV. Luigi, bentornato a 2024. Grazie a voi. Luigi, per quale motivo la missione Chang'e 5 è importante e vale la pena parlarne? È una missione davvero molto importante perché ha dimostrato le capacità della Cina di riuscire a portare una sonda su un corpo diverso dalla Terra, estrarre del materiale e riportare a Terra dei campioni del suolo lunare. Perché innovativa? Beh, perché adesso c'è tutta la nuova tecnologia. Mentre allora c'era la tecnologia degli anni 60 e degli anni 70, adesso c'è la tecnologia degli anni 2000, che ha dimostrato di funzionare perfettamente e in massima sicurezza. Si pensi che una delle cose più complesse che si possano immaginare è l'aggancio automatico in orbita lunare di due sonde. Oggi quello che noi chiamiamo il rendezvous tra le navicelle viene eseguito regolarmente con navicelle attorno alla Terra, con uomini a bordo o senza uomini a bordo, ma attorno alla Luna riuscire a fare agganciare delle navicelle senza l'uomo a bordo, beh, è qualcosa di assolutamente innovativo. Perché è difficile? Perché noi non conosciamo molto bene quella che è la forza di gravità della Luna, che ha delle aree dove la forza di gravità è leggermente maggiore rispetto ad altre, e questo a causa di una concentrazione diversa di materiali che ci sono vicino alla superficie. Ebbene, questo fa sì che una navicella venga attirata, anche se di pochi centimetri, a volte anche di pochi millimetri, di più in un'area rispetto ad altre. Quindi far sì che due navicelle riescano ad incontrarsi in modo del tutto automatico, senza che intervengano degli uomini, è un'operazione molto difficile. E questo i cinesi sono riusciti a farlo. Una volta che la navicella che era scesa sulla Luna e che aveva inglobato al suo interno il materiale appunto lunare, è ritornata in orbita attorno al satellite naturale, si è agganciato con la navicella madre e ha riversato su di essa il materiale che aveva raccolto. Un'operazione andata alla perfezione. Poi si è dovuto attendere qualche giorno perché la Luna e la Terra si trovassero nella situazione migliore per ritornare a Terra, e hanno acceso i motori e la navicella è ritornata a Terra. È ritornata a Terra anche con una traiettoria molto particolare, perché è arrivata a 40.000 km all'ora. Certo, già lo facevano le navicelle Apollo, ma questa volta, anziché entrare direttamente nell'atmosfera, è rimbalzata sull'atmosfera. Un gioco come quello che facciamo da bambini, ma anche da adulti, quando prendiamo un sasso piatto e lo facciamo saltare su magari un lago o comunque dell'acqua ferma. Ecco, loro sono riusciti a far rimbalzare la navicella sulle parti più esterne dell'atmosfera per allentare la velocità. Da 40.000 km all'ora è scesa a 26.000 km all'ora, e da quel momento poi appunto appunto è caduta nell'atmosfera, ha aperto i paracadute ed è arrivata nel luogo prescelto. Quindi davvero una missione piena di innovazioni che sono state portate a termine nel migliore dei modi. Questa missione, il valore di questa missione è soprattutto per testare la tecnologia, immagino, per missioni future, più che, cosa sicuramente importante, raccogliere rocce e terriccio lunare. Esattamente. Io direi entrambe le cose, perché ovviamente questa tecnologia dimostra che i cinesi ora hanno in mano la possibilità di poter andare attorno alla Luna, di scendere sulla Luna e di ritornare a casa. Ma è stata importante anche dal punto di vista scientifico, perché il luogo dove è scesa la navicella per raccogliere dei campioni è un luogo abbastanza particolare, con rocce vulcaniche relativamente giovani che potrebbero spiegare alcuni fenomeni geologici che sono avvenuti diciamo nelle ultime centinaia di milioni di anni rispetto ai miliardi di anni della storia che ci hanno raccontato le rocce che hanno riportato a casa gli astronauti delle missioni Apollo. Quindi un duplice aspetto. E poi anche hanno diciamo utilizzato un trapano che è entrato sotto il suolo lunare per estrarre dei campioni e per riportarli a casa. Quindi anche questa è una tecnologia che è stata messa a punto con risultati eccellenti. Quindi davvero tecnologia e scienza insieme. Senti Luigi, ci fai un breve ricapitolo delle attenzioni che ci sono sulla Luna, anche in vista di missioni marziane, perché effettivamente la Luna in varie modalità, anche penso lo scorso anno o forse 2 anni fa, ricordo una gara tra privati e c'era anche un'associazione, chiamiamola così, privata israeliana, che era riuscita a mandare una sonda almeno vicina alla Luna, poi non è riuscita ad atterrare. Però effettivamente la Luna sta tornando negli ultimi anni al centro di 1000 attenzioni. Ecco, ci fai un breve quadro della situazione? La cornice del quadro è sicuramente la parola Artemis, questa diciamo nome che ci porta, in quanto sorella gemella di Apollo, a riportare l'uomo sulla Luna. Allora, nonostante il passaggio dal vecchio presidente Trump al nuovo presidente americano, che di solito porta delle lungaggini o comunque dei ripensamenti, per il momento non sembra che ci siano ripensamenti, e quindi si sta lavorando a spron battuto per portare la prima donna e riportare l'uomo sul nostro satellite nel 2024. Per fare questo ci sono dei passi che verranno fatti nei prossimi 2 o 3 anni davvero al galoppo, in quanto a partire dal 2021 verranno lanciate una serie di piccole missioni robotizzate, sia con dei rover sia con delle semplici sonde che scenderanno per provare delle tecnologie, per esempio per estrarre l'ossigeno dalle rocce che oggi abbiamo qui sulla Terra ma che bisogna sperimentare anche là, o per trasformare la regolite, cioè il suolo lunare, la polvere lunare, in qualcosa di consistente per creare dei mattoni, oppure per verificare se veramente quel ghiaccio che c'è al polo sud è tale che lo si possa estrarre facilmente per poi darlo in utilizzo agli astronauti che vi scenderanno nel 2024. Allora, da qui al 2024 saranno in atto tutta una serie di piccole missioni proprio a partire dal 2021, e dal 2023 verrà posto in orbita attorno alla Luna, verranno poste le prime parti di quella che è la Gateway, cioè la stazione spaziale dove gli astronauti si fermeranno prima di scendere sulla Luna e dove ritorneranno prima di ritornare a casa. Ecco, è un po' la base dove si farà anche della scienza per lo studio dell'universo, per lo studio di altre cose dall'alto, ma servirà proprio per questo luogo di passaggio che poi poi sarà anche il luogo di passaggio per andare su Marte. Quindi questa stazione spaziale sarà fondamentale proprio per i prossimi decenni. E nelle ultime settimane vi sono state le varie firme per costruire moduli che saranno costruiti in Italia. Quindi possiamo dire che tre quarti della stazione spaziale cislunare, cioè attorno alla Luna, saranno costruite in Italia. Questo sicuramente ci permetterà di avere un uomo a bordo della stazione cislunare. Ti faccio un'ultima domanda su un'altra missione automatica che è stata stupefacente, il risultato è stato stupefacente, ma direi poi tutta la missione. La Hayabusa 2 è una missione giapponese che è andata in alcuni anni di tempo su un asteroide a prelevare un po' di roccia ed è riuscita precisamente ad arrivare su un asteroide molto piccolo, molto lontano dalla Terra e ritornare. È tornata alcune settimane fa. Anche in questo caso stiamo parlando di tecnologia veramente incredibile, Luigi. Certamente, qui parliamo di un altro mondo, il mondo giapponese. Pensate che è arrivata vicino ad un asteroide, l'asteroide Ryugu, è scesa due volte sull'asteroide, addirittura la seconda volta ha creato un piccolo cratere artificialmente per estrarre materiale in profondità, se l'è messo al suo interno e l'ha riportato a casa ed è arrivata con una precisione assoluta in Australia, ma non solo. Durante il ritorno la traiettoria di questa sonda era tale ed è tale per cui si è riusciti a identificare un altro asteroide lontanissimo al quale ci arriverà nel 2031, verso il quale arrivare là e forse scendere, dove scenderà la navicella madre che ha sganciato sulla Terra, la navicella figlia al cui interno vi era questo materiale. Materiale di asteroidi che ci portano ovviamente indietro nel tempo per capire come è nato il nostro sistema solare. E già abbiamo tante informazioni perché siamo riusciti a capire che questo asteroide non è un oggetto solido, ma è un insieme di tanti piccoli corpi che sono il risultato di un enorme scontro tra due asteroidi padri, diciamo così, che si sono frantumati e si sono riuniti in questo asteroide di circa un chilometro di diametro e che per tanti motivi appunto è oggetto di studio molto importante. Questi asteroidi dovrebbero per esempio essere ricchi di acqua e invece questo non ha acqua, allora ci sono tutti i tentativi per cercare di dare una spiegazione. Insomma, una missione di altissimo livello tecnologico che darà dei risultati scientifici davvero molto molto molto importanti. Luigi, grazie per essere stato con noi, come sempre a presto. Grazie a voi. Adesso cambiamo argomento, parliamo di marketing di prossimità, una cosa che si fa grazie a sensori, e pochi giorni fa Shopfully ha annunciato un accordo per inserire nel proprio network 65.000 sensori che sono posizionati in migliaia di punti vendita in Italia. Stefano Portu, fondatore e amministratore delegato di Shopfully, benvenuto a 2024. Grazie. Innanzitutto, quando parliamo di marketing di prossimità, ovviamente digitale, che cosa intendiamo? Ma intendiamo rendere i negozi fisici smart, quindi far sì che facilitino l'esperienza di acquisto come se fossero dei negozi digitali. Quindi fa parte, secondo me, di un concetto un po' più ampio. Ormai il consumatore è uno, che compri online o compri in negozio è sempre lo stesso, si è abituato a una serie di cose e vuole usare il telefono, lo smartphone come telecomando per fare shopping, anche quando si trova in un negozio fisico. Di fatto vuol fare tre cose, vuole accedere a tutte le informazioni, quindi vuole interrogare, vuole ricercare anche lo scaffale. Vuole che gli sia semplificata l'esperienza d'acquisto, quindi per esempio ha imparato online a non fare le code, non le vuole più fare neanche nel negozio fisico, e infine vuole pagare in modo più semplice possibile. Ecco, la prossimità è una delle dimensioni, l'ultimo miglio, di questo percorso in cui il telefono diventa di fatto il telecomando per fare gli acquisti. E quando parliamo di marketing di prossimità, quindi parliamo di un marketing digitale che ha delle logiche simili a, o forse uguali a quelle che noi ormai vediamo, alle quali siamo abituati online, ma che accadono, tutte queste cose accadono, sbucano sul nostro smartphone quando noi siamo fisicamente in quel negozio e non in un altro. Quindi è veramente, cioè, il legame tra digitale e fisico qui è molto stretto. Esatto, per riprendere proprio da come la racconti tu, è un po' come se a tutto quello a cui siamo abituati sul digitale, la personalizzazione, la profilazione, si aggiungesse un'altra dimensione che è la localizzazione. Quindi in qualche modo la consapevolezza da parte dei servizi digitali che ci vengono offerti di dove ci troviamo. Siamo fuori da un negozio, siamo a casa in una zona in cui ci sono alcuni negozi ma non altri, siamo invece dentro, e se siamo dentro siamo vicini a una vetrina o siamo vicini alla cassa. Ecco, l'insieme di queste informazioni sommate a tutte le altre informazioni che sono sul digitale, usate nella prossimità per rendere più semplice e più idealmente appagante l'esperienza di acquisto. A proposito di localizzazione, ovviamente ci deve essere qualche sistema, qualche sensore che dice allo smartphone dove si trova. Voi avete annunciato un accordo con Coca-Cola che vi mette a disposizione 65.000 beacon, che sono sensori Bluetooth, poi tu ci spieghi meglio di cosa si tratta, per fare marketing di prossimità in decine di migliaia di punti fisici. Beh, innanzitutto che cosa sono e soprattutto perché Coca-Cola ha dei sensori in giro sparsi per l'Italia? Allora, faccio un piccolissimo passo indietro e ti rispondo. Allora, Shopfully, come sai, di fatto di mestiere fa esattamente questo, cioè collegare centinaia di migliaia di negozi, 250.000 negozi fisici in Italia con 30 milioni di consumatori che ormai avviano i propri acquisti dallo smartphone. Quindi questo è il nostro mestiere. E la prossimità, come appunto la chiamavamo prima, è un po' l'ultimo miglio, nel senso che noi iniziamo portando le vetrine dei negozi vicino casa sui telefoni dei consumatori quando sono a casa. Questi consumatori decidono dove andare, cosa comprare, e si recano in negozio. Ecco, come anticipavi, all'interno del negozio, dove la dinamica anche di localizzazione diventa ancora più granulare, i beacon sono dei sensori intelligenti che funzionano attraverso la tecnologia Bluetooth, quindi che funzionano solo se noi abbiamo per esempio il Bluetooth attivo sul nostro telefono, e che consentono di determinare la posizione di un consumatore con un livello di precisione estremamente elevato. Quello che accade attraverso questa partnership con Coca-Cola HBC Italia è che loro avevano dei beacon posizionati all'interno di, abbiamo 65.000 beacon, quindi una rete molto importante posizionata all'interno di questi frigo Coca-Cola, con un obiettivo di monitorare in modo anonimo il traffico, diciamo, vicino alle frigovetrine, nei punti vendita in cui sono collocate. Attraverso, collegando questa importante rete di beacon con la nostra piattaforma tecnologica, quello che accade è che rendiamo questa rete intelligente, quindi questa rete diventa capace, se il consumatore lo desidera, di veicolare messaggi e comunicazioni quando il consumatore si trova in quelle aree dei negozi. Che cosa potrebbero vedere e sentire i consumatori quando si trovano in prossimità di uno di questi 65.000 sensori? Allora, queste sono iniziative che adesso andranno costruite con i negozi, con i brand, e potranno andare dal raccomandare il fatto di scoprire prodotti o promozioni che sono disponibili in quel negozio, in quell'area del negozio, a esplorare nuovi servizi, per esempio, che il negozio ha appena attivato e sono disponibili, a sconti dedicati, oppure invece al fatto di aiutare a scoprire nello scaffale un nuovo prodotto che è stato lanciato e che magari è disponibile per il trial. È un nuovo modo, dobbiamo tutti riconoscere che, credo faccia l'esperienza di tutti i giorni, che spesso accade quando ci si incontra anche nei supermercati fisici, di vedere molti col carrello gli occhi però fissi sul telefono. Ecco, questo diventa un modo per intercettare anche appunto tra le corsie l'attenzione del consumatore in modo più efficace. Quindi quello che potrà essere fatto con questi 65.000 sensori non è necessariamente legato a prodotti Coca-Cola, cioè Coca-Cola vi mette a disposizione la rete in base, immagino, ad un accordo fra di voi, e poi voi inserite questa rete nella vostra offerta. Assolutamente sì, assolutamente sì. Questa è una rete, appunto, è un accordo che è pensato un po' come raccontavi all'inizio, cioè siamo in una fase di accelerazione, direi più in generale, della trasformazione digitale dei negozi fisici. Quindi i negozi fisici vincono se consentono alle persone di fare quello che le persone fanno meglio, cioè dare consulenza, supporto, anche solamente relazione, che tutti ci aspettiamo perché siamo esseri umani. Però dall'altra parte alzano il livello di competizione con i negozi digitali, per esempio nel rendere facili da reperire le informazioni, cosa si trova dove nel negozio, le novità, le promozioni, eccetera. Ecco, all'interno di questa trasformazione digitale dei negozi, all'insegna del telefono come telecomando per fare shopping, un po' di attori presenti in questo sistema, ne abbiamo citati adesso due, Shopfully, appunto, e la partnership con Coca-Cola HBC Italia, mettono insieme due asset preesistenti, questa rete di beacon e la piattaforma, per cercare di rendere questi 65.000 negozi più smart. Una domanda dal punto di vista tecnologico: questi sensori sono quindi connessi ad internet, e come sono connessi a internet? Tramite diciamo la rete del negozio, in autonomia, e soprattutto voi sapete precisamente, quindi immagino, potete fare una promozione esattamente su quel punto vendita, su quel sensore preciso. Magari in un negozio ce n'è più di un sensore, potete decidere che il sensore A ti dice delle cose, il sensore B ti dice altre cose. Ora, assolutamente sì, hai citato diciamo tutte opzioni e operazioni che possono essere, diciamo, tarate fino al singolo punto vendita. Poi nella mia esperienza devo dire trovo che spesso le innovazioni convenga iniziarle a usare nel modo più semplice, cioè secondo me è già una straordinaria un po' il senso dell'operazione che citavi anche tu prima, è portare a scala su un numero importante di negozi il fatto finalmente di poter parlare dentro il negozio al consumatore attraverso uno smartphone, visto che l'attenzione e gli occhi sono lì sopra. Poi si può arrivare a forme di micromarketing fino allo scaffale, e lo scaffale di quello specifico negozio. Chiaramente la sfida, come sempre, è che dietro a una tecnologia che diventa estremamente complessa, occorre poi che le strategie di marketing, i contenuti, le idee per creare valore per il consumatore diventino altrettanto complesse. Io credo che in questo quello che ho imparato in 20 anni di digitale, dal mondo della telefonia, poi a quello dei contenuti e poi quello del retail, bisogna andare per gradi e tenere le cose semplici. E la stella polare deve essere portare servizi e contenuti che realmente creino valore per il consumatore. Se il consumatore non apprezza quello che gli proponiamo, o se è troppo complicato, la tecnologia di per sé non è qualcosa che interessa a nessuno. Ah sì sì, non c'è dubbio. Come sono collegati questi beacon alla rete internet? Autonomamente o tramite il negozio? Ma la cosa interessante, Enrico, è che i beacon non sono collegati a internet, sono degli oggetti che semplicemente dicono all'app, ad alcune app sul tuo telefono, se tu hai dato il consenso, se hai il Bluetooth attivo, dove ti trovi. A quel punto è nell'app che c'è l'intelligenza per dire: ah, Enrico si trova vicino al punto 1781, che corrisponde a quella zona di quel negozio, raccontiamogli questa storia o mandiamogli questa immagine o questo sconto. Quindi fondamentalmente il beacon è veramente un suggeritore di posizione. È un suggeritore di posizione. Adesso lo vado a registrare e mi prendo il copyright di questa definizione. Sì. Senti, ti faccio un'ultima domanda sulla, tornando al punto di partenza, il marketing di prossimità. Pare a me, magari tu mi smentisci, che siamo ancora, nonostante se ne parli un po' da tempo, siamo ancora agli inizi, non abbiamo visto tantissime cose quando noi passeggiamo per negozi, perché poi ci sono tantissime altre forme di marketing di prossimità basate sempre su lo smartphone o comunque su sistemi digitali. Guarda, dipende da quanto sei stretto nella tua definizione di marketing di prossimità, no? Nel senso che se torniamo a quello che tu raccontavi prima, cioè io ti racconto la nostra esperienza, noi lavoriamo in diversi mercati in giro per il mondo con ormai quasi 800 retailer di varie categorie che vanno dal mondo del food, del grocery, dell'elettronica, l'abbigliamento, l'arredamento, il bricolage, eccetera, no? E tendenzialmente, quindi se tu mi parli di prossimità come l'utilizzo del digitale localizzato, quindi per esempio mettere in contatto un negozio con i consumatori che abitano nel quartiere intorno al negozio, ti dico che è una cosa che ha avuto un'accelerazione nel senso inglese del termine drammatica, in particolare nel 2020. Se hai presente il fatto che, come dire, i retailer di tutto il mondo spendono il grosso delle proprie energie di marketing nello stampare volantini, o almeno meglio spendevano per portare persone in negozio, questo è l'anno in cui, e noi ne siamo stati, diciamo, protagonisti, una gran parte di questi retailer è passata invece a usare il telefonino per parlare ai consumatori che vivono nel quartiere e portarli in negozio, per raccontargli le promozioni, gli orari d'apertura, eccetera, no? Quindi, se parliamo di prossimità, intesa come anche comunicazione di quartiere geolocalizzata, mi viene da dire che in realtà è già un settore molto sviluppato e che quest'anno ha avuto un'accelerazione fortissima. Se invece mi parli di della frontiera del negozio intelligente, quindi la comunicazione dentro il negozio, sono d'accordo con te, è un po' in ritardo rispetto a, diciamo, la comunicazione più di novità tecnologica di qualche anno fa. Sta accadendo. Ed è una naturale conseguenza del fatto che sempre più consumatori, per ragioni anche concrete, per esempio quella di pagare, hanno il telefono in mano in negozio. Per cui devo dire che è una cosa su cui noi abbiamo visto già dei numeri in forte crescita quest'anno, mi aspetto che nei prossimi 12-18 mesi ci sia un'ulteriore forte accelerazione. Stefano, grazie per essere stato con noi. A presto, buon lavoro. Grazie a te, Enrico. Bentornati, io sono Enrico Pagliarini, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Siamo in onda il venerdì tra le 22 e le 23, domenica con la nostra breve replica alle 13:10. Trovate una ricchissima versione podcast, il nostro super podcast con tutte le nostre interviste in edizione integrale. Ci trovate online sul nostro sito internet attraverso la nostra applicazione oppure attraverso le principali piattaforme di audio on demand, a partire da Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, eccetera, eccetera. Potete contattarmi scrivendomi attraverso Twitter, Facebook o LinkedIn, cercate Enrico Pagliarini oppure 2024, oppure il nostro indirizzo di posta elettronica 2024@radio24.it. Allora, è interessante quanto sta accadendo fra Apple e Facebook negli Stati Uniti. Tutto nasce da una decisione presa dalla Apple che sulla versione 14 del sistema operativo dell'iPhone, quindi iOS 14, nei primi mesi del prossimo anno, obbligherà ogni applicazione a chiedere all'utente se vuole abilitare il tracciamento dei dati che finiscono poi nel profilo che alimenta pubblicità personalizzate. Allora, questa cosa si può fare già oggi, cioè si può attivare o disattivare questo sistema di profilazione. Sia Apple che Google creano un profilo sul telefono del proprietario che attinge informazioni da molte applicazioni. Dicevo, si può disattivare, ma sono pochi, sono circa il 30% su Apple e circa il 5% su Google Android, quelli che vanno nelle impostazioni, smanettano un po', trovano la funzione di tracciamento per la pubblicità e la disabilitano. Allora, questo profilo, seppur anonimo, perché non è che ci viene scritto Enrico Pagliarini, ci viene scritto utente KZY, eccetera, eccetera. Però è molto preciso, permette alle società che usano questo dato, quindi Apple e Android forniscono queste informazioni a società che gestiscono network pubblicitari, usano questo dato per veicolare messaggi pubblicitari molto precisi e personalizzati. Allora, Facebook, che vive di messaggi pubblicitari di questo tipo, è furibonda e ha comprato annunci pubblicitari sulla stampa americana per dire che questa mossa di Apple, perché pensate che se ogni applicazione chiede esplicitamente all'utente se vuole abilitare o disabilitare, beh, si pensa che molti diranno voglio disabilitare questo servizio. Allora, secondo Facebook questo è un grave danno per oltre implicitamente alla società, ma è un grave danno per molte piccole aziende che usano Facebook per fare pubblicità profilata, personalizzata. È una battaglia dura, è una delle grandi questioni della nostra epoca, perché mi verrebbe da dire, hanno ragione entrambi, sia l'uno a tentare di proteggere più la privacy degli utenti, anche se Facebook poi accusa Apple di utilizzare la privacy come scusa per poi far aumentare i servizi su abbonamento e gli acquisti in app su cui Apple guadagna qualche soldo, ma potrei dire che ha ragione anche un po' Facebook, perché è vero che molti esercizi commerciali, anche molte start-up, sono riuscite a vendere i propri prodotti proprio grazie alla pubblicità profilata, che non vale solo per Facebook, vale poi un po' in generale per molti altri servizi su internet. Anche di questo, non solo di questo, si occupano le nuove norme a cui sta lavorando la Commissione europea, le ha presentate questa settimana. Potremmo definirlo un digital pack, un pacchetto che contiene tutte le nuove norme digitali. Sono state presentate appunto dalla Commissione europea in settimana. Ci facciamo aiutare per capire di cosa stiamo parlando da Innocenzo Genna, che è un esperto di regolamentazione in ambito digitale, segue questo mercato da vicino a Bruxelles. Innocenzo, bentornato a 2024. Salve a tutti e grazie per l'invito. Allora, in generale, qual è il senso delle proposte fatte in settimana? Sì, il senso generale è quello di adeguare la normativa internet, che fondamentalmente era quella del 2000, alla nuova situazione di mercato e tecnologica. Quando la normativa del 2000 è stata adottata in Europa, c'erano poche piattaforme, ma in generale era un mercato dove tutto era visto in maniera positiva, era un mercato di crescita, era un mercato in cui tutti entravano, in cui nuovi servizi fiorivano e soprattutto non c'era nessuna posizione dominante di nessuna grande piattaforma. Adesso la situazione è cambiata, ci sono tanti più servizi, internet ha un'influenza fondamentale sulla vita delle persone e sulle attività economiche, e vi sono degli attori, degli operatori globali che possono avere un'influenza determinante. Quindi bisognava adeguare le normative che non erano più adatte ad affrontare le sfide attuali. Che cosa propone la Commissione europea, ovviamente per linee generali? Allora, propone di adeguare la normativa a seconda della dimensione degli operatori o della loro capacità di influire sulla vita e sull'economia. Quindi non cambia niente per gli operatori di base, ma vi sono poi a scalare norme sempre più importanti nei confronti degli operatori globali che vengono identificati nel caso del Digital Service Act con quegli operatori che hanno un mercato di almeno il 10% degli utenti europei, quindi almeno 45 milioni di utenti. Ecco, in questi casi, su questi operatori rilevanti, importanti, che hanno capacità di influire sul mercato, che tipo di responsabilità vengono attribuite e che tipo anche di sanzioni, cioè l'Unione Europea come si sta comportando con questi player che per la maggior parte, non certo tutti, ma per la maggior parte sono internazionali e tipicamente statunitensi? Allora, vi saranno delle regole che rafforzano i poteri degli utenti o delle imprese che hanno a che fare con questi operatori, a seconda dei casi. Quindi, ad esempio, nel caso della moderazione dei contenuti, le piattaforme non avranno più il diritto unilaterale di rimuovere, bloccare, proibire, ma ci dovrà essere un sistema trasparente in cui spiegano quello che fanno, dovranno mettere in atto una procedura di comunicazione con gli utenti e vi dovranno essere delle corti o comunque dei luoghi per risolvere in maniera ragionevole le eventuali dispute. Tutto questo dovrà essere predisposto da queste piattaforme e potrà essere previsto un sistema di audit esterno che certifichi che il sistema è adatto e protegge sufficientemente i diritti degli utenti. Secondo te queste norme possono essere giudicate efficaci per in alcuni casi ripianare certe distorsioni del mercato, o farà fatica la Commissione europea a incidere in modo netto? Io penso che si tratti di una buona iniziativa. Ovviamente è ancora all'inizio, perché queste sono delle proposte, anche se proposte su cui si è lavorato molto, e quindi hanno l'ambizione di essere una risposta efficace ai problemi che si intendono risolvere. Però da adesso inizia un percorso legislativo che sappiamo a livello europeo essere complesso, perché le istituzioni che se ne occuperanno, cioè il Consiglio e il Parlamento, sono istituzioni che rappresentano interessi molto compositi, quindi non solo dei partiti ma anche degli interessi nazionali, i vari paesi. Quindi il percorso sarà complesso, e vi potranno essere delle modifiche che potrebbero portare in qualche punto ad un annacquamento, ma in altri in un inasprimento, a seconda di come lo vediamo. Ad ogni modo sarà un percorso che durerà, a mio parere, almeno un paio d'anni. Alla fine però di questi paio d'anni la proposta sarà un regolamento, quindi sarà direttamente applicabile, il che vuol dire che non si dovrà attendere ulteriore tempo. Senti, se tu dovessi riassumere quali sono i problemi principali che con questo tipo di regolamento la Commissione e l'Unione Europea tenta di risolvere, quali menzioneresti? In linea generale è ribilanciare il rapporto tra le grandi piattaforme e gli utenti. Quando gli utenti hanno un problema con una piattaforma, che può essere un problema di viene rimosso, bloccato un contenuto, se è oggetto di contenuti selettivi che non piacciono, il sistema non funziona perché c'è un problema dell'operatore, ma è un problema che ha un effetto molto importante sulla gente, perché ormai la gente si affida a certi servizi. Pensiamo alla situazione di down di Google Mail qualche giorno fa. Lì sarà un sistema con cui le piattaforme devono essere maggiormente responsabili, devono dare delle risposte, devono seguire delle procedure. Cioè non si possono difendere dicendo ma è roba nostra, vi faremo sapere. Quindi vi sarà una maggiore responsabilità nei loro confronti. Dal punto di vista della concorrenza, il Digital Market Act permetterà alle autorità europee di intervenire anche in anticipo rispetto a potenziali abusi. Vi sono vari comportamenti dei grandi operatori che possono avere un effetto sulla concorrenza del mercato, però normalmente adesso possono essere attaccati solo dopo che sono stati commessi e dopo un'analisi di mercato. Adesso invece la Commissione potrà identificare alcuni operatori che hanno un'importanza pervasiva nel mercato, potrà identificare da subito una serie di comportamenti che possono essere critici e potrà o vietarli o assoggettarli a delle regole di comportamento. Pensiamo ad esempio quando abbiamo un telefonino, uno smartphone, e determinate applicazioni sono imposte dall'operatore mentre noi vorremmo semplicemente rimuoverle. Attualmente questo non è possibile. Questa possibilità di avere un maggiore controllo dello smartphone che abbiamo comprato e che quindi è nostro, ci vorremmo fare quello che vogliamo, questo sarà permesso. Vi sarà anche la possibilità per gli operatori di interoperare con le grandi piattaforme, una startup che vuole sviluppare un servizio di comunicazione, ma in un mercato che è già presidiato da una grande piattaforma, avrà la possibilità di far interoperare il proprio software con il software della grande piattaforma, pensiamo a WhatsApp, a Messenger, eccetera, e in questo modo la startup sarà maggiormente facilitata nel creare la propria attività. Innocenzo, grazie di essere stato con noi, a presto. Grazie a voi. Bentornati, questo è il programma di tecnologia di Radio 24. Pochi giorni fa Asso Software, che rappresenta l'industria del software in Italia, ha scritto ad alcuni ministri, ministro dell'economia, ministro dello sviluppo economico e quello dell'innovazione, per chiedere un cambio di rotta nella digitalizzazione dei servizi della pubblica amministrazione. In effetti molti cittadini e moltissime imprese, direi tutti i cittadini e tutte le imprese, si scontrano spesso con servizi digitali della pubblica amministrazione che non sono stati pensati, progettati con in testa i migliori standard internazionali. E da qui nasce questa richiesta da parte di Asso Software. Il presidente è Bonfiglio Mariotti, benvenuto, grazie di essere con noi. Grazie. Da dove nasce questo appello che voi avete rivolto di fatto al governo? Ma perché la burocrazia, quella che noi intendiamo in senso negativo naturalmente, che per noi tutti rappresenta l'inefficienza delle procedure pubbliche, quelle che sono sostanzialmente anche basate su carta e documenti e che rendono complesso e soprattutto difficile il dialogo con il pubblico da parte delle imprese e dei cittadini. Ma arriviamo a oggi e parliamo di digitale. Allo stesso modo, in realtà si sta creando una burocrazia digitale che è l'insieme degli strumenti e dei servizi digitali pubblici. Proviamo a pensare a tutte le app, che ce ne sono ormai a decine, centinaia, migliaia, ai portali, ai siti web, che in realtà bloccano o rendono lunga e difficile la lettura e la trasmissione dei flussi digitali. Tutto questo perché c'è una farraginosità e c'è un insieme di questi strumenti che un po' ci ricorda e ci porta indietro ai vecchi faldoni che non si sapeva dove cercarli. Qui adesso non è tutto omogeneo, anzi di omogeneo c'è veramente poco. La digitalizzazione vera non è trasformare un documento o dei dati cartacei in un file, ma è creare un flusso sistemico. In un'era, d'altra parte, in cui le aziende, le imprese sono dotate di applicazioni informatiche, quasi tutti, direi tutte ormai, con le quali lavorano quotidianamente, è impensabile, io credo che sia anche un non senso, dover accedere alle informazioni pubbliche uscendo dai propri programmi software e dovendo digitare manualmente i dati o gli accreditamenti su un sito o su un portale internet, perché è lontano dall'azienda, è lontano dai professionisti che si occupano e assistono le imprese. Questo si riflette ovviamente in tanta perdita di tempo, sia in fase di lettura che poi di acquisizione nei propri sistemi, a cui ci aggiungiamo un'alta probabilità di sbagliare e introdurre errori. Certo, quindi quello che voi dite, mi sembra di comprendere, di capire, è c'è molta frammentazione, questo è uno dei problemi, quindi ci vorrebbero pochi servizi a cui accedere, concentrare ad esempio procedure solo sull'Agenzia delle Entrate, solo su pochi portali, e poi forse ancora più grave è che si sono digitalizzate delle procedure copiando un po' i meccanismi del mondo fisico, del mondo analogico, del mondo manuale, cioè non ci si è aggiornati sugli standard più moderni, tranne pochissimi casi, perché comunque ci sono dei casi di eccellenza, di cose che funzionano. Sicuramente. Il primo che mi viene in mente, che non è solo di eccellenza, ma è veramente stratificato ormai nel sistema economico italiano, che è stato realizzato in realtà dall'Agenzia delle Entrate e da Sogei, che è quello della fatturazione elettronica, dove miliardi di documenti transitano ogni anno avanti e indietro fra le imprese private che utilizzano questo sistema di hub, no, che è fatto di hub tecnologici, che è sostanzialmente fatto dalle nostre aziende, dalle nostre software house, collegandosi con lo SDI, con il sistema di interscambio. È un sistema che funziona, ma è uno dei pochi. Ci ricordiamo tutti le questioni legate all'INPS, no? Ai famosi click day. Ci ricordiamo chi non è addetto ai lavori non capisce, non sa quanta fatica è gestire il rapporto, per esempio, con tantissimi enti. L'Agenzia delle Entrate è, per esempio, all'avanguardia in questo, non altri enti. Ora però andrebbe fatto un passo in più, no? Che è un passo importante, che è un passo fondamentale, che serve per risparmiare il tempo degli operatori privati e serve per eliminare tutti gli elaboratori, gli errori di elaborazione e di invio dei dati. E quindi, entrando in una logica che noi abbiamo chiamato API first, cioè le API prima di tutto, no? Che sono le applicazioni software delle imprese, devono accedere o possono accedere, potrebbero accedere direttamente ai dati pubblici senza uscire dai programmi in uso. Poi l'attività manuale quindi viene limitata o sparisce perché è trasformata in processo, in processi machine to machine, no? Dalla mia applicazione che ho nella mia azienda o nel mio studio professionale con quella, no, dello Stato, dell'Agenzia delle Entrate, dell'INPS, degli enti locali, degli enti periferici o centrali, perché in realtà questi processi diventano più veloci ma anche più sicuri e senza errori. In realtà mi piacerebbe dire, dare una battuta, perché in realtà diventano anche più democratici, perché non sono più lasciati alla discrezionalità degli operatori o al tempo che hanno o non hanno. Questo naturalmente è un problema particolarmente sentito da quei soggetti come gli intermediari, no? Commercialisti e consulenti, che per mestiere e delegati delle imprese fanno una mole di lavoro, pensiamo semplicemente a decine e decine di milioni di utenti che dovrebbero avere rapporti con lo Stato, in realtà sono intermediati da qualche decina di migliaia o qualche centinaia di migliaia. Ecco. Sì, quello che voi dite, mi verrebbe da dire, è una richiesta di normalità in un mondo dove ormai lei ha fatto riferimento alle API, questi sistemi, queste applicazioni aperte che potremmo definire dei bocchettoni che servono per far parlare i sistemi in maniera automatica, aperta, neutrale, che oramai nel mondo delle applicazioni su smartphone, nel mondo dei servizi, anche molti dei servizi più moderni che noi utilizziamo, sono la normalità. Quindi il vostro appello è quasi quasi un appello alla una richiesta di normalità anche nella pubblica amministrazione. Sì, è una richiesta di effettiva normalità. Pensiamo, a me non piace, ma non possiamo non pensare, per esempio, ad aziende, a multinazionali che sono sulla bocca di tutti come Amazon. Amazon ha fatto la sua fortuna non perché vende online, ma perché interagire con Amazon è per un'impresa che vuole vendere i prodotti ad Amazon o vendere i propri prodotti attraverso le piattaforme di Amazon, ma dico Amazon, ma ce ne sono tanti, ma sono tutte società multinazionali, ma anche italiane, che però fanno dell'utilizzo della tecnologia una cosa strategica. Cioè, chiunque voglia interagire con società di questo genere lo fa attraverso le API, cioè il gestionale che io uso in azienda interagisce in modo nativo con la piattaforma in questo caso per esempio di Amazon. È ovvio che tutto questo mi semplifica la vita all'utente, semplifica la vita al privato, semplifica la vita alla piattaforma, rende tutto automatico l'emissione di documenti, poi probatori, fatture, tutto quello che c'è, insomma, ecco. Se vogliamo spiegare che cos'è in realtà un'API, l'API è una metodologia di sviluppo dei software, delle applicazioni, che avviene a strati, non più un monoblocco come si faceva una volta le automobili negli anni 60, il motore, no? Ma ci sono tante microfunzioni che addirittura suddividono le applicazioni a disposizione degli utenti in piccoli, piccolissimi pezzi, in piccolissimi servizi, e quando un altro software chiama l'applicazione centrale, in questo caso dello Stato, potrebbe chiamare semplicemente quel servizio che gli serve, non tutto il resto che è estremamente ridondante e che richiede perdite di tempo. Chiarissimo. Senta, le faccio un'ultima domanda su l'idea che lei si è fatto dei motivi per cui siamo ancora a questo punto, tranne, come dicevamo prima, alcune eccezioni sicuramente molto buone. È un problema della politica, è un problema di mancanza di risorse, quindi di mancanza di soldi, di investimenti, è un problema di scarse competenze tecnologiche, perché di scarse competenze tecnologiche già abbiamo il problema nelle aziende, magari figuriamoci nella pubblica amministrazione. Cioè, immagino che ci siano tutti questi elementi, ma dal suo punto di vista quali sono i più rilevanti e i più gravi? Mi verrebbe da dire, purtroppo mi sento di dover dire che è un problema politico, è un problema di volere un rapporto diretto fra lo Stato e i 60 milioni di cittadini o i milioni e milioni di imprese, perché altrimenti non si spiega questa cosa. Cioè, è chiaro che avere un rapporto diretto con i cittadini non è possibile per le cose complesse e che richiedono quindi elaborazioni da una parte e dall'altra. Quindi stiamo parlando a qualche milione di imprese, stiamo parlando a qualche decina di migliaia o centinaia di migliaia di intermediari che intermediano il rapporto. Ora, se per esempio l'INPS, no, vuole fare il click day con a cui partecipano 10 milioni di persone, è totalmente sbagliato come concetto. Se l'Agenzia delle Entrate, no, vuole avere un rapporto diretto con coloro che chiedono i ristori 1 bis e ter, no, attraverso un proprio sito internet, se ho un portale, se per esempio ancora oggi obbligano 1,5 milioni di esercenti ad utilizzare i registratori telematici, che sono dei pezzi di ferro, degli hardware, no, per poter inviare i corrispettivi telematici giornalieri, no, senza pensare che si potrebbe tranquillamente utilizzare il sistema di fatturazione elettronica, quello di interscambio con lo SDI, che c'è già, funziona perfettamente. Quindi un esercente, fra l'altro, ce l'ha già, perché il ristorante, l'albergo, questa gente qui ce l'hanno già in casa. Quindi basterebbe che l'Agenzia delle Entrate, per esempio, approvasse un regolamento, perché non c'è una legge da fare, non c'è niente, e basta un regolamento del direttore dell'Agenzia delle Entrate e le cose, no, si affianca uno strumento software agevole, semplice, collegato invece di uno strumento hardware che richiede per esempio una presenza fisica ogni volta che c'è un cambiamento da fare. Quindi è un problema culturale, e se è un problema culturale io credo che sia la politica a doverlo dirimere. Molto chiaro. Mariotti, grazie per essere stato con noi, a presto. Grazie, arrivederci. Beh, ci sarebbero veramente tante altre cose, perché ogni settimana mi vengono tante idee, però poi il tempo è questo, e soprattutto poi anche il tempo per realizzare, per trovare gli ospiti. A volte non si trovano gli ospiti giusti per parlare di certi argomenti. Comunque insomma, ogni settimana prendo nota, e alcune delle puntate poi sono frutto anche di pensieri di settimane precedenti. cercheremo di migliorare sempre di più anche nel 2021, anche se il 2024 si avvicina e rimane sempre il dubbio. Un giorno faremo una vera e propria campagna online per raccogliere le vostre opinioni degli ascoltatori, cioè mantenere questo titolo perché ormai è conosciuto, è quasi come fosse un brand 2024, oppure in concomitanza con il 2024 del calendario cambiare completamente titolo e pensare a qualcos'altro, che potrebbe anche essere 3024, così risolviamo i problemi definitivamente, oppure cambiare e fare qualcosa che non è un numero, eccetera eccetera. Bene, ci penseremo, abbiamo ancora un po' di tempo. Grazie come sempre per la vostra attenzione, per aver scaricato questa che è la versione digitale, il nostro podcast, o meglio il nostro super podcast. Io sono Enrico Pagliarini, potete scrivermi a 2024@radio24.it. Ci risentiamo la prossima settimana.